Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Mr. Kilowatt. Siamo a inizio anno e sono tutti lì a fare statistica, a fare conti sull'anno appena trascorso. E allora anche noi questa sera partiamo da un dato che ci arriva dalla Gazzetta Ufficiale e secondo il quale sono stati attivati nel 2010 70 contratti di leasing per nuovi impianti fotovoltaici, per un totale di 300 milioni di euro. Perché ci interessa? Perché questa formula di finanziamento, il leasing, ma anche il project financing, sono formule che si stanno affermando come tra le più adeguate per quanto riguarda le operazioni che hanno a che fare con l'energia, quindi le rinnovabili, ma anche e soprattutto il caso della riqualificazione energetica, questo specialmente quando sono coinvolti enti pubblici. Ecco, che cosa hanno di speciale queste formule? Perché sono così interessanti? Perché scaricano i rischi su un soggetto terzo. Insomma, se qualcosa va male non è la pubblica amministrazione a dover correre ai ripari, ma un altro soggetto. Ci facciamo spiegare tutto da Veronica Vecchi, che è docente alla Scuola di Management dell'Università Bocconi di Milano e che è in linea con noi. Buonasera Veronica. Buonasera Maurizio, buonasera a tutti. Allora, proprio ieri Veronica abbiamo parlato di un progetto che si è svolto a Udine, che tu conosci bene, in cui l'ospedale della città, che doveva riqualificare la centrale termica, ha colto l'occasione per fare una vasta operazione di efficientamento energetico che prevede addirittura la fornitura di riscaldamento a 39 grandi utenze cittadine. Dicevo che tu conosci bene questo caso perché ci hai lavorato, è uno di quei casi in cui si è ricorso a questi contratti, in particolare a un project financing. Ecco, in un caso come questo qua, che cos'è per esempio che può andare male? Quali sono concretamente i rischi? Beh, allora, bisogna fare una puntualizzazione. Quando le amministrazioni pubbliche in generale, aziende sanitarie o enti locali, comuni, devono realizzare un investimento, lo possono realizzare per esempio con un appalto tradizionale oppure con contratti strutturati articolati proprio come quello avviato dall'ospedale di Udine. Benissimo, normalmente in un'operazione di appalto tradizionale i rischi sono l'allungamento dei tempi di realizzazione, l'aumento dei costi, piuttosto che potrebbe essere che la qualità dell'opera realizzata non sia adeguata rispetto al servizio che effettivamente l'amministrazione si aspettava. Certo. Quindi è proprio qui che i contratti di partenariato pubblico-privato possono dare grandi vantaggi all'amministrazione, nel senso che l'amministrazione attraverso un contratto di partenariato chiede ad un operatore privato, sì, che può essere una ESCO, una Energy Service Company, esatto, una società di progetto piuttosto che un'associazione temporanea di imprese, di progettare, di finanziare, di costruire un'opera, un impianto e di gestirlo, e l'amministrazione pagherà il servizio erogato, quindi pagherà solamente dopo aver visto che l'opera è stata realizzata e soprattutto pagherà se il servizio rispetterà determinati parametri di qualità. Se così non fosse, l'amministrazione ovviamente non paga, oppure potrebbe pagare una cifra decurtata da eventuali penali. Quindi questo è, diciamo, un grande vantaggio, cambia il modo di realizzazione degli investimenti. Da un punto di vista economico però immagino che qualche differenza invece ci sia. Sì, certo, allora evidentemente queste operazioni sono sicuramente più costose per l'amministrazione, però diciamo che per valutare la convenienza di queste operazioni è necessario tenere in considerazione due elementi. Innanzitutto bisogna valorizzare quindi diciamo questi rischi che vengono trasferiti all'operatore privato, è una sorta di assicurazione, quindi l'amministrazione paga un pochettino in più subito per poi evidentemente pagare meno dopo nel caso in cui questi rischi si manifestino, perché eventualmente la manifestazione dei rischi genera un costo che quindi sarà a carico dell'operatore privato. E tra l'altro, insomma, mi sembra abbastanza evidente che siccome chi gestisce l'impianto è anche colui che, come dire, paga in caso di malfunzionamento in modo molto chiaro ed evidente, probabilmente le probabilità di problemi diminuiscono. Certamente farà di tutto per ne neutralizzare questi rischi, ma farà di tutto non solo perché appunto se si dovessero manifestare il costo sarebbe a carico loro, ma il principio, diciamo, alla base è questo: gli operatori privati che si assumono questi rischi hanno le competenze per gestire questi rischi, quindi sostanzialmente si riduce la probabilità di manifestazione. In termini numerici è possibile più o meno stabilire quant'è la differenza, quant'è lo spread, come si dice in gergo tecnico? Diciamo che vuoto per pieno, visto che dobbiamo semplificare, realizzare un appalto tradizionale finanziato in mutuo, se appunto andiamo a considerare quello che potrebbe essere il rischio di manifestazione di questi rischi, viene a costare esattamente tanto quanto un'operazione di partenariato pubblico-privato. Ci potrebbero però essere alcune differenze, soprattutto se andiamo ad analizzare qual è lo strumento finanziario che viene utilizzato per finanziare queste operazioni di partenariato pubblico-privato, perché se queste vengono finanziate in leasing, sicuramente il leasing finanziario è uno strumento molto efficiente, quindi complessivamente diciamo che il costo è esattamente lo stesso. Esatto. Se dovessero essere realizzate in project financing, poi magari mi ospiterai in una prossima puntata così appureremo la differenza tra questi strumenti, il project financing è sicuramente molto più oneroso per le amministrazioni. Grazie Veronica Vecchi. Grazie a tutti e buona serata. Grazie anche a voi ascoltatori per essere stati qui con noi fino a questo punto. Domani parliamo di energie rinnovabili e infrastrutture, una coppiata che a quanto pare potrebbe dare molte soddisfazioni. Buona serata.